Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Riguardo all'alta percentuale di crimini commessi dai rumeni, secondo me la domanda da farsi è: perché in Italia i rumeni delinquono più che nel loro paese? Sarà forse perché la nostra legislazione è considerata tale che valga la pena rischiare di essere arrestati, dato che le pene sono pressoché nulle? Almeno se raffrontate a quelle comminate in Romania. Sono il codice penale e quello di procedura, che vanno completamente rivisti dal legislatore. Pietro. Nessuno li ha chiamati, nessuno li desidera. Eppure si presentano a frotte sulle nostre coste, a volte anche 4.000 in 48 ore. Eccoci qui, vogliamo una casa, un lavoro, la moschea, cibi e vacanze diverse da voi, eccetera, eccetera. Che differenza con i nostri migranti che entravano in punta di piedi con certificato penale, sanitario, documenti in regola e non pretendevano niente. Quei 4.000 dopo i legittimi ricongiungimenti familiari diventano 40.000. Ed ecco che le periferie delle città italiane diventano tanti ghetti, dove delinquenza, degrado e paura sono la norma. La divina provvidenza è come sempre latitante, e i pochi che affrontano la questione con sano pragmatismo sono tacciati di razzismo. Vedo un futuro di guerriglia razziale. Edoardo. Quello che manca al canone RAI per essere recepito dalla gente e di conseguenza pagato è una corretta ed equa accezione. Quella più comunemente percepita, ovvero il canone come tassa che permette l'accesso alla visione dei canali della rete di Stato, è peggio che iniqua, data la qualità del servizio offerto e la povertà dei contenuti del palinsesto. Pessima anche la via seguita per farla comprendere quale tassa di possesso di apparecchi televisivi o capaci di sintonizzarsi anche via web. Siamo tutti figli di Napster. La RAI non può riuscire dove fallisce anche la SIAE. Dare un servizio corretto e non fazioso, evoluto e non vergognosamente immobile, otterrebbe lo stesso risultato di un'improbabile vendita di CD audio a un corretto ed equo prezzo di 5 euro. Diverrebbe una spesa adeguata e comprensibile. La RAI non è attualmente un'azienda che gode della fiducia e del rispetto degli utenti, il che vizia qualsivoglia balzello si tenda ad associarle. Andrea. Scrivo a proposito della proposta di utilizzare le impronte digitali per evitare il solito fenomeno dei pianisti che, in Parlamento, votano anche per i loro colleghi. Mi chiedo se non sarebbe più economico e meno problematico per chi è suscettibile alla questione delle impronte adottare semplicemente un sistema simile a quello di molte macchine industriali. I bottoni per la votazione, associati ad ogni posto in aula, dovrebbero essere attivi solo in caso il posto ad essi associato non sia vuoto, controllando questo parametro con un sensore di peso. Se sul sedile ci sono meno di 50 kg, i pulsanti semplicemente non funzionano. Per quanto riguarda la verifica delle presenze in aula, un badge con RFID, soluzione adottata in logistica, consentirebbe di automatizzare il conteggio degli ingressi e delle uscite dall'aula, senza cambiare le abitudini degli interessati, in pratica con un tornello virtuale. La verifica del passaggio attraverso la porta di accesso all'aula in entrata o in uscita avverrebbe in modo molto simile a quanto avviene alle casse dei supermercati, ma al posto del lettore di codici a barre, il sistema utilizzerebbe le radiofrequenze. Può darsi che tutte queste soluzioni siano già state valutate, ma, nella mia ingenuità, mi sembrerebbero più semplici, discrete e soprattutto economiche del costosissimo controllo delle impronte. Antonio. Sarò fuori moda, ma penso che se si producono più macchine di quelle che si vendono, situazione in realtà cronica, visto che il mercato dell'auto è drogato da incentivi d'ogni sorta da parecchio tempo e ovunque nel mondo, significa semplicemente che gli individui pensano che sia meglio spendere i propri soldi per qualcos'altro. Se all'epoca in cui si iniziarono a produrre le prime auto, i fabbricanti di carrozze per cavalli avessero avuto il potere di ricatto dei gruppi automobilistici, a quest'ora saremmo ancora in giro col calesse, perché gli aiuti di Stato avrebbero fatto sì che le auto non sarebbero mai state competitive. Capisco l'enorme numero di lavoratori coinvolti, ma se un'impresa non fa quello per cui è nata, soddisfare i clienti, il mercato la punisce ed è giusto, oltre che funzionale, che fallisca. Simone. Invocare altri aiuti per finanziare gli acquisti di automobili È un grosso errore, che potrebbe al massimo dilazionare il picco di crisi di 5 anni, lasciandone una più profonda. Un esempio concreto. 3 anni fa mi hanno rubato l'auto e ne ho acquistata una con una rateazione bassissima. Insomma, avendo già 100.000 chilometri, tra meno di un anno dovrò acquistare una nuova auto, ma mi restano da pagare ancora 8.000 euro per la vecchia auto. Un effetto perverso che non avevo previsto. Mi sono accorto che facilitare troppo gli acquisti nel breve equivale a spargere i semi di una crisi ancora peggiore, da raccogliere pochissimi anni dopo. Francesco. Non capisco perché a Milano e in Italia continuino a esistere centri sociali abusivi. Cioè gente che ha occupato, alias rubato, edifici non suoi e continua a starci per anni. Mi chiedo con che faccia le istituzioni possono pretendere da noi cittadini multe e sanzioni per ogni minima infrazione e poi dimostrarsi impotenti di fronte a cose del genere. Oltretutto questi centri sociali, ma sarebbe meglio dire asociali, sono elementi di degrado e distruzione del tessuto sociale, dato che organizzano concerti abusivi, fanno graffiti sui muri, vandalismi e una serie di altre azioni illegali. Paolo. Ecco, forse ci siamo. Come quando, trovando una lumachina nel bosco, se le tocchiamo un'antennina, questa si ritrae subito, per poi restare a lungo ritratta, e poi venir fuori di nuovo, a poco, quando la bestiolina ipotizza che non vi sia più pericolo. Così la finanza globale si è subitaneamente collassata, e ci vorrà tempo prima che riemerga di nuovo. Nel frattempo la lumachina, la società con le sue attività economiche, resta priva di un importante organo sensoriale, e si ferma, o procede alla cieca. Fuor di metafora, provo a fare qualche considerazione complessiva al riguardo. Chissà che non stimoli qualcuno a dire la sua e a farmi capire meglio, in modo da procedere un po' meno a tentoni. Punto primo, sensitivity. Pochi punti percentuali di diminuzione della domanda provocano enormi variazioni percentuali negli utili perdite delle società. La minimizzazione dei costi avviene per una data e di solito crescente richiesta dal mercato del prodotto o servizio. Quando questo scende, anche poco, ecco i debiti o i licenziamenti. Punto secondo, variation. Il vero problema è quando queste variazioni in meno avvengono in modo repentino e non previsto. Decadenza della domanda lenta lascia il tempo per chiusure, inattivo, riconversioni, riaddestramenti ed in sostanza ad una graduale applicazione di innovazioni con miglioramento degli output, dell'efficienza, del livello di vita generale, almeno nel caso ideale. Punto terzo, social sustainability. Veloci variazioni vanno gestite con mezzi straordinari. Cassa integrazione, prestiti garantiti, accorpamenti, acquisizioni, debito pubblico che in fondo assorbono risorse passate o future e quindi rallentano i benefici della continua innovazione. Infine, cito un libello di Bertrand Russell, Elogio dell'ozio, che ipotizzava che il tempo libero generato dall'incremento di produttività dovuto all'innovazione tecnologica fosse usato dall'uomo per aumentare le attività più umane. Studio, amicizie, speculazioni filosofiche, pensare, ovviamente utopia. Ma non ci stiamo arrivando molto blandamente con i contratti di solidarietà, settimana cortissima, eccetera. Conclusione. Forse molto nasce dall'eccesso di velocità del nostro darci da fare e della nostra innovazione. Se si potesse, pur lasciandola libera, gestirla con più attenzione, avremmo, e ribadisco forse, un progresso più lento ma meno instabile, dove lasciare le vecchie cose per le nuove sarebbe meno traumatico. Che le prossime regole che Obama vuol dare ai liberi mercati facciano il miracolo? Con stima, Zag. Scrivo da Barcellona, città in cui vivo, per commentare l'affermazione di Cannavaro che si lamentava del fatto che i suoi compagni di squadra, scherzosamente, gli dicessero «italiani? Tutti mafiosi». Al di là del contesto ludico in cui possono essere pronunciate frasi di questo tipo, mi lascia perplesso che il capitano, dopo tanto tempo in terra iberica, non riesca ancora a far buon viso ai topici cui siamo per nostra nazionalità soggetti. Italia, spaghetti, mafia, mandolino, equivalente alle nostre Spagna, paella, corrida, siesta. Anche se non abbiamo l'abitudine di generalizzare e non consideriamo gli spagnoli come una nazione tutta appartenente ai terroristi dell'ETA, bisognerebbe girare il tavolo dei commensali e metterci nei loro panni per capire cosa passa loro per la testa quando ci danno dei mafiosi. È della settimana scorsa la notizia, diffusa nei giornali e telegiornali spagnoli, dell'arresto di un camorrista napoletano, Salvatore Zazzo, avvenuta a Barcellona. Come se non fosse abbastanza, a distanza di pochi giorni, nei TG spagnoli, un'ulteriore notizia sulla mafia, l'arresto di un gruppo di camorristi che pianificavano una vendetta durante il Gran Premio di Montmeló. Insomma, senza voler giustificare il fatto che gli spagnoli, scherzando tra amici o colleghi, a volte ci chiamino mafiosi, viene pressoché facile immaginare il loro pensiero, considerando che tali notizie passano sui loro giornali ogni 4 o 5 mesi. Che penseremo noi degli spagnoli se con tanta frequenza si leggesse sui nostri periodici di continui arresti di componenti dell'ETA in territorio italiano? Sandro. Egregio direttore, l'argomento non è strettamente di attualità, ma è sempre importante sottolineare la stridente disparità di trattamento che insiste sul terreno pensionistico tra il popolo e i nostri parlamentari governanti. I nostri rappresentanti politici godono di sconfinati privilegi pensionistici e non solo quelli, che non enumero. Nei vari tavoli di discussione circa i continui ritocchi al sistema pensionistico nazionale, si siedono da una parte i cittadini, tramite i loro rappresentanti, che sono chiamati a continui sacrifici, corretti in virtù delle dinamiche demografiche, e dall'altra i nostri rappresentanti politici che non prendono mai in considerazione un minimo ritocco ai loro benefici. Non le sembra ci sia una stridente differenza? Sembra un film già visto. I giorni prima della Rivoluzione francese, quando il re, che godeva di pane in abbondanza, negava al popolo la farina. Carlo. È provato ed è sotto gli occhi di tutti. In Italia, chi si comporta bene, paga le tasse tutte e lavora di braccia giorno e notte, può al massimo avere i suoi doveri. Mentre chi ruba, uccide e si comporta male verso tutti ha diritto di urlare e mettere a tacere chiunque e con qualsiasi mezzo. L'omertà non è solo in qualche zona del sud. L'omertà è in tutto lo stivale. Quando abbiamo la macchina lavata e due monete in tasca, abbassiamo il capo e ce ne freghiamo di tutto. Le ingiustizie le lasciamo a chi tocca, pretendendo invece aiuto quando ne abbiamo bisogno. L'economia riparte se compriamo la macchina nuova, ma riparte nelle tasche degli altri e non nelle tasche di chi la deve pagare. Maurizio Lucca. Mi piacerebbe sapere se adesso Battisti si trova in una galera brasiliana, perché credo che, comunque, le galere brasiliane siano peggiori di quelle italiane. Non vorrei quindi che, portandolo da noi, gli facessimo invece un favore. Ma se invece è una galera brasiliana, tanto meglio. Lasciamolo là. Qui in Italia avremo un detenuto in meno da mantenere. Ci sarà un costo in più loro ed un risparmio invece per noi. L'importante è assicurarsi che sconti l'ergastolo. Felice. Provocazione. Perché non chiediamo al governo brasiliano di farsi carico della presa in custodia degli individui attualmente prigionieri a Guantanamo per il post chiusura della prigione extraterritoriale ed extralegislativa statunitense? In fondo, loro si dichiarano come protettori dei perseguitati per reati politici. Simone. Non sono d'accordo su tutto questo chiasso su Battisti. Sono stupito di questo accanimento. Se anche il Brasile volesse rimandarcelo indietro, prima o poi la nostra ingiustizia sicuramente troverebbe il modo di liberarlo. E mentre sarà ben mantenuto nelle nostre carceri, gli faranno anche scrivere un libro, logicamente a spese dello Stato. Lasciamolo dov'è. Siamo già in crisi, senza soldi per le nostre povere famiglie, e poi ci eviteremo delle belle risate da parte dei brasiliani e dei francesi, quando sapranno della sua liberazione. Massimo. Caro direttore, non le sembra che si stia dedicando troppo spazio, troppo interesse, attorno alla vicenda di un terrorista come Cesare Battisti? Non sarebbe meglio scegliere la strada del silenzio e non tornare alle vicende di tanti anni fa? Emilio. Caro Emilio, no, non sono per nulla d'accordo. Nella vicenda di Cesare Battisti, ricordiamolo, condannato per la partecipazione a 4 omicidi, si sommano molte diverse prospettive. Quella della giustizia, innanzitutto. Chi ha commesso reati deve pagare il proprio conto. È una delle regole di base della convivenza sociale. E poi c'è il rispetto delle persone, dei familiari, delle vittime del terrorismo che non possono essere considerate diverse dalle vittime di qualunque altro delitto. e c'è il rispetto per la verità e la dignità della persona. In un paese libero e democratico come sempre è stata l'Italia in questo dopoguerra, non è accettabile la violenza come fine di lotta politica. È ancor meno accettabile che un paese come il Brasile, come qualunque altro paese, possa considerare l'Italia un paese non in grado di garantire i diritti politici e civili. E allora giusto è continuare a parlare del caso Battisti, come è giusta l'indignazione e la protesta verso un paese tradizionalmente amico come il Brasile. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.